魂込めた一人の男が今日も行く真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。カラオケ、ナンパにクラブ、他にすることあるだろうが、触れなきゃ遊べぬ奴らには心に問いかけるぞ。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタ四郎。 Jet Set Radio Cast, siamo di nuovo collegati da Riva Azzurra di Rimini per una puntata speciale dedicata a World Club Champion Football. È una puntata che pensavo da tempo di fare, ma che si è realizzata un po' per caso. Infatti ci trovavamo qui a Rimini per il consueto raduno del Club Sega e nella sala giochi Pyramid abbiamo incontrato Davide. Ciao a tutti. E Luca. Ok, Davide e Luca hanno accettato di partecipare con mio sommo piacere per questa chiacchierata su World Club Champion Football, che magari lo abbreviamo in WCCF, ok? Io direi di iniziare subito parlando un po' del gioco, per spiegarlo, perché sicuramente quasi tutti l'avranno visto passando nelle sale giochi d'Italia una decina di anni fa, però è un gioco un po' particolare, quindi magari non tutti se lo ricordano o ci hanno giocato recentemente. Vai Davide. Il gioco tendenzialmente parla di calcio, ovviamente la base è calcistica, ovviamente il gioco è una via di mezzo fra un manageriale di calcio e il classico gioco da console domestica. L'unica cosa è che nel gioco tu impersoni l'allenatore che comanda la squadra posizionando i giocatori in campo e chiedendogli durante il gioco di fare attacco a destra, attacco a sinistra o centrale, sempre quando la squadra rispetta gli ordini del mister. Sì, perché non sempre questo accade. Mai. Non succede mai. Tu vai a sinistra, lui va a destra, dici di fermarti, va avanti. L'unica cosa è puoi decidere quando tirare, quello sì. Perfetto. Allora, per specificare, praticamente possiamo dire che è un gioco di carte collezionabili. Tu dal gestore della sala giochi andavi a acquistare il mazzo base, giusto? Il cosiddetto starter pack. Starter pack, con quello potevi iniziare a giocare, a registrare nel cabinato i tuoi giocatori. Giusto? E poi ad ogni partita al termine veniva elargita una bustina contenente un altro giocatore di rarità variabile. Veniva sempre elargita, sia se perdevi che vincevi che pareggiavi la partita. Ogni volta il gioco ti regalava una carta per arricchire la tua collezione, che era fonte di scambi tra collezionisti. Esatto. Poi, se non ricordo male, prima della partita vera e propria c'era anche una piccola fase manageriale, forse potevi parlare con i giocatori o fare un allenamento. Praticamente si potevano allenare tutta la squadra. Parliamo al presente, che ci giochiamo ancora. Allora, vabbè, si allena la squadra ad attaccare, a difendere, ad essere più veloce, più brava nei passaggi, più precisa. E poi dopo si può fare... si può decidere alcune cose, tipo chi è il capitano, chi tira le punizioni, aumentando la praticamente noi adesso la chiamiamo diciamo la resa. La voglia di fare. Sì, ogni giocatore tramite un'icona ti dice se è arrabbiato oppure felice, e allora che poi praticamente poi è una conseguenza della resa nel gioco. Sì. Il giocatore triste ovviamente gioca meno convinto. Peggio che quando è la sua bella faccina è rossa, e vuol dire che allora è in forma ed è uno di quelli con cui puoi puntare, chiaramente. Tipo Cannavaro nell'Inter sarebbe triste e quindi giocherebbe male. Era grigissimo, era nero. assolutamente. E soprattutto poi oltre a questo si poteva fare le famose intese fra due giocatori. Questa me la son persa. Praticamente sì, c'era una schermata dove tu, prendendo proprio fisicamente le due carte, le muovevi e il gioco automatico sapeva che tu volevi far interagire i due giocatori. C'era una semplice domanda, tu dovevi provare a indovinare la risposta più corretta, che se indovinavi aumentava la loro intesa, che poi è quella che porta all'intesa di tutta la squadra. Sì, sì. Ma c'era anche un budget da rispettare per ingaggiare i vari giocatori, o tipo sei dalla bustina pescavi Shevchenko? Il budget era dato dai giocatori che utilizzavi. Se utilizzavi giocatori di un certo calibro, di una certa potenza, quindi nomi molto altosonanti, quindi grandi campioni, Shevchenko, Ronaldo, Totti, Nedved, ovviamente la squadra doveva ben rendere. Perché se non vincevi regolarmente le varie coppe, le varie campionati che durante il gioco venivano proposti, facendo pochi incassi, ovviamente la squadra si limitava nel gioco, perché perdeva e andava in crisi finanziaria. Si chiamava crisi economica. Crisi economica, e tutti i giocatori diventavano tutti grigi automaticamente. Dovevi rivincere determinate coppe per riavere dei soldi e per rientrare e fare tutti i giocatori felici. Certo, ecco, io a questo punto non c'ero mai arrivato, perché Crespo piuttosto. Nella prima serie c'erano forti, ho letto così un po', cioè Shevchenko, Crespo, Nedved, quelli in porta Totti, che c'era. Totti. Uno dei più ambiti, poi dopo c'erano tanti effettivamente. Sì. Poi c'erano anche carte, quelle denominate carte bianche, che magari venivano poi scoperte carte forti, sì? Tipo del vecchio, sì? Il buon vecchio Miccoli. C'erano molte carte che effettivamente... Cioè, quindi anche carte non rare, carte potevano... non rare effettivamente venivano molto ben adoperate. Buono, questa è un'ottima cosa. Allora, per capire un attimo, dicevamo che il giocatore, oltre a fare la sua squadra, disporre il campo, ha dei pulsanti che permettono di dare delle indicazioni alla squadra, come un allenatore in panchina, diciamo. Il ragazzo che sta fisicamente giocando sulla postazione del VCCF interagisce con il gioco, con i comandi posti alla sua destra e alla sua sinistra. Con i comandi posti alla destra decide solamente il momento del tiro e il momento dell'intervento dell'uscita del portiere. Invece con le mani sinistra, con la mano sinistra, agisce nei tasti denominati il tattico. Sì. Praticamente dove la squadra deve o attaccare privilegiando la fascia sinistra, o la fascia centrale, o la fascia destra. Il pressing e ovviamente il contropiede, che a tutti amanti del calcio, il contropiede, da buoni italiani lo conosciamo bene. Certo. Ed è sempre acceso. Una cosa che notavo oggi, mentre, perché voi vi siete trovati lì per fare un torneo, sì. È andato tutto bene, sì. Bella. Ho vinto io, per forza. Ho notato che molti gol, forse, andavano su ribattute del portiere. È una cosa voluta o no, varie azioni, anche tiri da fuori area, ci sono tecniche? Tiri da fuori area non è difficilmente, sì. Lì si fare, anche perché non, cioè, tirando... quando è molto lontano difficilmente riesci a fare gol, sì, sì. Deve essere un problema del computer, perché non te lo fa fare solitamente, anche sì. Perché con difesa schierata il pallone è sempre fermato dai difensori, certo. Non arriva quasi mai al portiere, quindi da, diciamo da che molto lontano. Come in ogni gioco dentro. Di calcio ha le bisogna sue dentro, sì. Peculiarità, entri in area, certo. No, il da aggiungere a quello che diceva lui, che probabilmente non è che fai solo l'allenatore in questa squadra, ovviamente sei presidente, allenatore e giocatore contemporaneamente, perché poi tu decidi, è vero chi fa giocare, ma decidi anche chi comprare, perché tu quando fai la squadra hai 16 giocatori, sì. 11 che giocano e 5 in panchina, ma se vedi che uno non va bene lo cambi e ne registri un altro, dopodiché quello lì non è come se non ce l'avessi più, fuori squadra. Perciò sei anche fai tipo presidente e in più giochi e in più collezioni le carte, perciò non si finiva mai. Sì, no, è veramente interessante come tipologia di gioco. Una cosa, formazione si può cambiare in partita? Potevi spostare le carte sul terreno per far disporre i giocatori o erano fisse una volta che le carte, quindi i giocatori, perché noi i giocatori li chiamiamo carte, perché alla fine sono delle carte, sì, sì. Li posizionavi nel campo, poi dopo se vedevi che avevi più bisogno di una marcatura sulla fascia destra allargavi il giocatore, come quasi avviene nella realtà. Se avevi bisogno di un centrocampo schierato a 4 o a rombo, posizionavi la squadra come volevi, poi dopo, in base ai giocatori che hai, ma anche in base all'avversario che ti trovi, perché anche l'avversario non sta fermo, certo. Ad incassare gol, ovviamente modifica anche la sua squadra per vincere, quindi ogni volta il gioco era modificabile, semplicemente spostando. puoi fare tre sostituzioni che basta. Il gioco togliere, togliere carte, posizionare l'altra, alla prima volta che il gioco si ferma si effettua la sostituzione, ma in diretta tu puoi muovere, c'è qualcuno che gioca, che quando attacca manda avanti le carte e quando si difende le prende e le tira indietro, ma praticamente il giocatore non è che vola, però tende comunque ad arretrare nella posizione in cui tu lo metti. Infatti mi ricordavo questo aspetto che era particolarmente interessante. Ti indietro tutto se vuoi. Ok, dai, allora adesso magari finiamo questa prima parte, ascoltiamo una canzone della colonna sonora di WCCF e poi ritorniamo per parlare un po' della storia del gioco, ok? Ricordiamo con affetto la prima versione di Andrea Morovisto, c'era il telecronista del gioco, era in italiano, e si chiamava Andrea Moroni, sì. E c'è rimasto perché molte volte aveva dei grossi problemi l'audio, cioè molte volte avevi già fatto gol, lui ancora stava raccontando l'azione, e quando ha detto che era gol ormai avevi già finito di giocare. Questi aneddoti sono interessanti. Sì, dopo era la prima versione in italiano. Ok, ci sentiamo dopo la pausa allora. Eccoci tornati per la seconda parte, qua anche fuori onda ce ne sarebbe da parlare per ore e ore, i tempi sono stretti, quindi adesso parliamo un po' della storia proprio del WCCF, in particolar modo riferito all'Italia, esattamente ascesa e declino del WCCF, non per colpa dei giocatori italiani, perché come abbiamo potuto parlare fuori onda, se i giochi non te li mandano, poi finiscono le discariche come ferri vecchi. Mamma mia, questa è la cosa che l'amante degli arcade proprio non vorrebbe mai sentire. E dai, allora iniziamo. Davide, parlaci tu di com'è nato a WCCF in Italia. Il WCCF è nato sicuramente in Giappone da intelligenti giapponesi che intenditori di computer, effettivamente. No, scherzi a parte, era nato inizialmente qui in Giappone per gli italiani, effettivamente, perché considerate che il primo torneo a livello internazionale si è svolto proprio a Rimini, alla sala giochi di Rimini, e abbiamo fatto proprio i 14 più forti italiani contro i due più forti giapponesi, e vennero a vincere il torneo in Italia, perché quello che ha vinto un giapponese, il mitico Bambi, giusto Luca? Come? Bambi, denominato Bambi. Bambi Junkies, tant'è che fu premiato anche che la sua squadra vincitore del torneo è stata memorizzata nel computer, quindi spesso ti capita giocando con WCCF di affrontare la squadra di Bambi Junkies. Grande, grande. E come dicevamo, la prima edizione era proprio, si chiama Serie A, era sulla Serie A. Serie A, il primo anno si giocava proprio Serie A, perché c'era solamente tutto il campionato italiano di Serie A, quindi c'erano tutte le squadre del campionato leader in Italia, e solo quello, solo del campionato italiano, e venne distribuito solo in Italia i primi due anni. Poi dal terzo anno il gioco fu distribuito effettivamente in tutta Europa, quindi coinvolgendo squadre spagnole, coinvolgendo squadre inglesi, tedesche, francesi, fu effettivamente allargato. Ci fu effettivamente un fiorire di sala giochi in tutta Europa, tante, soprattutto in Inghilterra, ce ne furono tante, a Londra se ne contavano tipo 10 o 15 sala giochi che avevano questo gioco. E questo ci ha portato a fare il secondo torneo internazionale tra i più forti italiani, i più forti giapponesi, i più forti spagnoli e i più forti inglesi. Gli spagnoli poi sono venuti tristamente a mancare, eventualmente perché si sono persi per barca. Si sono persi nel tiki-taka. Gli spagnoli effettivamente, che erano stati invitati, due spagnoli a giocare al torneo internazionale di Londra, non si presentarono, e due a caso che si trovavano lì a Londra solo come partner degli iscritti al torneo internazionale, gli fu chiesto gentilmente: ma volete giocare? Le carte le avete con voi? Avevamo zaini, avevamo, perché effettivamente i due iscritti al torneo eravamo esattamente io, David e Luca, che è davanti Luca, a me. Luca qui presente. Quindi entrambi noi abbiamo partecipato. Non volevamo neanche giocare. Noi non volevamo giocare, ci hanno proprio insistito e pregato. E com'è andata? Abbiamo vinto l'italiano, la finale, primo e secondo l'italiano. Ci sono sul sito, se andate a guardare sul sito del nostro forum, digitando su qualsiasi motore di ricerca. Questo è lui, quello sono io. Quello con gli occhiali da sole sono io. È un ragazzo di Roma, questo è ragazzo di Milano e questo è ragazzo questo di Brescia che ha vinto in Inghilterra. Questo gli ascoltatori non lo possono vedere, poi mettiamo i riferimenti per vedere. Digitando su qualsiasi motore di ricerca e cliccando immagine VCCF vi compaiono tutte le nostre principali foto del nostro forum e tutto quello che avete effettivamente. Insomma, tenevate alta la bandiera dell'Italia. La bandiera dell'Italia a Londra l'abbiamo tenuta effettivamente bella alta. Effettivamente sei stato bene. Fa piacere. E poi cosa è successo? Poi dopo di questo grande enfasi per questo gioco, non si sa perché a livello europeo, forse perché gli europei non sono così amanti effettivamente del calcio come gli italiani, il gioco è andato a vivere un momento di declino. Molte sala giochi non avevano più il reddito, perché tanto alla fine un gioco dentro una sala giochi, se non rende non va, se non va lo togli. Esatto. Soprattutto perché la tecnologia va avanti, le case produttrici di videogame producono altri simulatori, altri giochi. Fatto sta che le 13, 14, 15 sala giochi di Londra nel giro neanche un anno tolsero tutti quanti il VCCF, quindi tolto dall'Inghilterra, tolto dalla Spagna, tolto dalla Francia e tolto dalla Germania, non ce n'era più uno, rimanevano in Italia. E però il gioco forse non rendeva più come i primi momenti di gloria e hanno cominciato a non distribuire più le carte. I vari aggiornamenti che susseguivano, continuavano a susseguirsi in Giappone, in Italia non sono mai arrivati. E quindi anche tutti noi effettivamente, un po' perché avevamo tante carte che continuavamo a comprare su internet, continuavamo a scambiare con ragazzi giapponesi che ci scambiavamo carte, noi mandavamo le carte nostre italiane, loro ci mandavano le carte giapponesi, solamente che noi con le loro non potevamo giocare, quindi erano effettivamente carte da collezione, da ammirare ma non provare. Esatto, poi come parlavamo fuori onda, comunque si tratta di un cabinato dal costo non indifferente e anche le partite quindi costavano abbastanza, diciamo, per il pubblico standard delle sale giochi. Comunque devi fare un certo investimento che richiedeva un interesse di fondo, non è che arrivavi lì, mettevi il gettone e giocavi. Il mazzo, se non mi ricordo, non vorrei dire una cazzata, 10 euro. Il cabinato costava 170.000 euro. 170.000 euro, che erano 4 postazioni e monitor. Esatto. Poi tra l'altro in Italia siamo rimasti fermi, intanto in Giappone è andato avanti, hanno cambiato anche scheda dalla Naomi 2, che mi dicevi forse era su CD-ROM o su CD alla Lindbergh, e adesso come software. Sì, la versione 2006-2007 mi dicevi. Sì, dal 2006-2007. E poi adesso io ho letto che dovrebbe essere su Ring Edge, che noi di Jet Set Radio Cast conosciamo bene, perché non arriva mai niente da noi di questi giochi anche simili che girano sempre in Giappone. E siamo arrivati ai giorni nostri, che ancora giocate al VCCF? Ai giorni nostri ci sono pochissime sala giochi, penso che si possono contare in un paio di mani, forse probabilmente qualche dito avanza pure. Per le sala giochi, la sala giochi di Fano ancora ce l'ha, il Bowling di San Marino ce l'ha ancora, Rimini ce l'ha ancora, credo che al nord l'abbiano tolte tutte, una volta c'era anche a Roma, tolto, Perugia non c'è più. Dalle mie parti, come vi dicevo, è sparito assolutamente. Non ha più reso perché il gioco, non arrivando più gli aggiornamenti, il gioco ovviamente noi continuavamo a guardare magari i filmati su YouTube dei vari tornei che si stavano susseguendo in Giappone, uno l'ultimo, marzo 2013, quest'anno hanno fatto un grande torneo in Giappone con l'ultima versione, noi abbiamo solamente potuto ammirare i filmati su YouTube, certo, di tutto quello che si è susseguito, però noi vedere ma non toccare è brutto, quindi perdi anche la voglia effettivamente, esatto, di ritrovarsi senza la giochi. È veramente, che poi tra l'altro in Italia dicevamo che non sono collegato online a differenza delle ultime versioni in Giappone. Che come altri giochi tipo Border Break è possibile giocare da una sala all'altra. Però in Italia forse perché o la banda larga non è mai arrivata con decisione, o perché magari sono sempre discorsi di soldi, investimenti, sì, sì, che dovrebbero, diciamo, fare le sala giochi. Il problema soprattutto era i diritti, sui diritti d'immagine delle varie squadre, che hanno un costo elevatissimo. Certo. E praticamente lo avrebbero fatta la traduzione se la Tecnoplay, che è quella che importa il gioco, distributore, doveva garantire almeno 50-60 macchine in tutta Italia a un prezzo nuovamente alto, perché poi erano tutte macchine da cambiare, avrebbe ritirato le vecchie, ma comunque il costo era elevato per i sala giochi che lo compravano, e l'avrebbe dovuto comprare anche in tutta Europa, perché poi dopo ci doveva la traduzione in inglese di tutto il programma, di tutte le carte, ed è una cosa molto costosa per loro, e hanno preferito escluderci. Sì, sì, diciamo che Sega negli ultimi anni ha deciso di, la parte orientale ha deciso di isolarsi proprio in Giappone, e gli europei tanti saluti, e ci arriva giusto Sonic forse. Ok. Allora, per il futuro cosa prevedete? Niente, praticamente. E per il futuro noi la passione, come vedi, come ci ha incontrato di qui casualmente oggi a Rimini, come vedi la passione ce la mettiamo sempre, ci ritroviamo, siamo tanti tutti amici di tutta Italia che abbiamo, questo gioco ha anche fatto scoprire diversi amici, ci si rincontra fuori anche del VCCF, quindi noi continuiamo a incontrarci, continuiamo a organizzare tornei, vorremmo far capire che effettivamente il gioco potrebbe non essere morto, almeno per gli italiani sicuramente. Noi adesso lo seguiamo anche da 10 anni, ci sono anche ragazzetti nuovi che ci giocano, quindi nuove leve che effettivamente hanno voglia infatti di giocare. Infatti ho visto dei ragazzi abbastanza giovani oggi sono al ragazzini torneo. Effettivamente abbastanza giovani. Ecco, diciamo che se uno volesse oggi riprendere a giocare o iniziare a giocare, può ancora farlo volendo, tanto voi avrete 2 milioni di carte, al massimo che vendete qualcuno. La passione del calcio in Italia è sfrenata, quindi effettivamente un gioco di calcio può andar bene, però certo bisogna anche capire questi gruppi che se devono pagare tutti questi diritti d'immagine, e certo, non sono pochi, si parla di parecchi zeri, e effettivamente distribuirlo senza garantire magari un forte ricavato può far fatica, e i periodi non sono più bellissimi. Ok, come vostra opinione, come lo vedreste un eventuale VCCF spostato dalle sale? Perché le sale purtroppo, nonostante qui a Rimini siano ancora, infatti noi ci veniamo qua a fare il raduno per giocare vari giochi, sono un po' in declino. Come lo vedreste il passaggio magari su console o in una versione casalinga? Diciamo che il bello di questo carte le vendi. Il bello di questo. Sì, ma come ci giochi a casa? Ecco, allora io non so se vi ricordate, qualche mese fa, poi era uscita una cosa delle figurine del Milan che probabilmente te le vendevano e tu le mettevi sul tuo smartphone faceva reggere. Quindi tecnicamente è una cosa che si potrebbe anche vedere a casa. Diciamo che non hai la praticità direttamente di avere la carta. Sì, quello sai. Le carte sono abbastanza spaziose, ti serve la postazione dove appoggiare la carta, certo, che come hai visto il cabinato è un buon 2 metri per 1. Sì, sì, sì. Quindi per voi il VCCF è esclusivamente da sala giochi. Giocare in casa non avrebbe senso. Non avresti amici con cui litigare, affrontarti, dire parolacce mentre giochi, quello è il bello del gioco. Fantastico, questa visione del gioco mi piace tantissimo, perché invece noi se venivi all'altro torneo che abbiamo fatto il mese scorso, sono volati dei urli, ma non solo parolacce, però anche proprio insulti ai giocatori, perché non fanno quello che te gli chiedi, insulti fra giocatore e giocatore, sfottò, non Poi qualcuno avrà iniziato anche le mani, però... Ragazzi, mi state dando grandi soddisfazioni con questa puntata. Questa è forse la cosa più bella che potevate dire in tutta la puntata. Se ti facevamo sentire un certo tipo di San Marino che tirava certi urli, è veramente no. Santi parte... del calendario. La bellezza del gioco è proprio ritrovarsi nella sala giochi. Ognuno poi chiama il suo giocatore. Se lo trasformassero in un gioco da console, da fare sul divano di casa tua o pigramente la sera sul letto, buttato con l'occhio mezzo assonnato dal lavoro, non ha lo stesso divertimento. Non mi piacerebbe. Il gusto è proprio, noi abbiamo fatto trasferte. C'è già FIFA, PES, chi cavolo di quegli altri giochi lì, sì. Dovresti avere anche questo, secondo me. No, ma poi proprio dico, non è il muovere le carte, giocarci sopra sta postazione, dargli pugni sopra quando ti fai arrabbiare. Se venite a vedere sono tutte rotte le postazioni, perché quando ti arrabbi veramente... Però è la nostra droga. Noi per degli anni è stata la nostra droga. Si finiva di lavorare, di andare a scuola e ci si infilava lì dentro. No, anch'io. A fare file di ore per poter fare due o tre partite. Adesso sì. Non c'è più nessuno. Una volta si faceva la fila, sì. Ti mettevi dietro, aspettavi che quello finiva con un bel sacchettino di euro, perché se ti azzardavi andare con i soldi contati, poi per andare a cambiare appena i soldi. Appena andavi a cambiare i soldi, trovavi la postazione occupata. No, vabbè, infatti io mi ricordo per quel poco che vi ho parlato, che ho giocato, anch'io appunto staccavo magari dal lavoro, andavo lì con la macchina, entravo tranquillo, mi mettevo le mie carte è tutta un'altra cosa il gioco da sala giochi. Non è veramente... un gioco trasferibile a casa quello. Okay, assolutamente no, proprio quando siete... Avevano fatto un tentativo con FIFA, che era il FIFA 12 o FIFA 13, che FIFA, Dream Team, ma quelle carte digitali. C'era le carte digitali che dovevi fare scambi o altre cose. Sì, però un'altra cosa, perché lì poi lì le partite le giochi, invece esatto. Anche il fatto che tu sei fuori, che sei l'allenatore e devi vedere un po' quello che combinano i giocatori in campo, è una cosa bella. Sì, poi lo sbirciare l'avversario che magari sta dislocando le carte in maniera differente, con chi gioca in formazione, poi vedi... È un'altra cosa, la sala giochi, questo è un gioco nato da sala giochi, non può essere trasferito. Bello, bello, bello, mi piace. Non può essere trasferito a casa, quindi questo qui assolutamente va mantenuto in sala giochi, andrebbe mantenuto in sala giochi se ci avessero voglia. Noi abbiamo fatto tante volte un'idea a mettere su, lo chiamavamo VTCF bar, nel senso un bar con dentro solo quello lì, due o tre cabinati di quello, avremmo fatto dalla mattina alla sera lì dentro, penso. Avremmo voluto aprire un bar bello. Con qualcosa, una struttura privata, tipo un club privato, neanche tanto aperto al pubblico. Cioè, un discorso. Io so per... che ci sono dei club in Italia per i giochi arcade, però il VCCF non ce l'hanno, anche perché noi ci abbiamo provato. Ma per il discorso quello, sempre dei diritti d'immagine, non si può portare in Italia. Il discorso è quello, non ce lo fanno portare. C'è stato un ragazzo di Milano che proprio ha provato a contattare tante persone per provarla a fare sta cosa, però non c'è riuscito. Vabbè, dai. Allora, va bene, adesso ci ascoltiamo un altro pezzo della colonna sonora, che poi vi faccio sentire anche a voi. E poi ci ritroviamo qua per i saluti, concludiamo la puntata. Questa sarà la puntata di Jet Set Radio Cast, credo, più lunga che abbiamo fatto fino ad ora, ma è veramente interessantissimo l'argomento. Ne farai due? Sì, quando volete, ragazzi. Poi si può scendere anche nel dettaglio tecnico, Poi, dai, allora sentiamo un pezzo, poi ci ritroviamo qui. all is gained and all we want. Our tired heart is given forever. Forever. Siamo giunti nostro malgrado alla fine di questa puntata. Ringrazio ancora Davide e Luca per aver partecipato. Dalle loro parole sicuramente quello che traspare è la passione per questo gioco, e allora vi lascio salutare da loro e che magari vi danno un riferimento per trovare dove ci si trova per giocare al VCCF. In sala. Solo in sala giochi, quindi se volete giocare al VCCF girate la sala giochi, diciamone qualcuna magari che è rimasta. Allora, la piramide di Riva Azzurra, c'è il bowling di San Marino, come si chiama quello suonato? Rosenbowl. Che è su a San Marino, salendo su San Marino, non mi ricordo bene dove, vicino allo stadio di San Marino. E poi c'è la Cattolica. Poi dopo ne abbiamo... Però è solo estiva quella lì. E poi a Fano, abbiamo perso i cosi. A Fano, al City Park, vabbè, presso la struttura dove c'è il bowling, lì ancora ce l'hanno. Comunque sì. Se siete interessati digitate VCCF Italia magari su internet e trovate forum anche, free. C'è anche un forum free, c'è un forum che... non è molto attivo in questo momento perché il gioco è un po' decaduto. Esatto. Non c'è tanto... oppure su Facebook si trova sempre, basta digitare VCCF e sicuramente qualcosa si trova. Se no andate in sala, che compratevi uno starter e... che adesso credo che facciano pagare solo 5 euro. Ah, buono. Qua alla piramide di Riva Azzurra ti noleggiano anche la scheda per provarla. Ah. Perciò tu paghi 5 euro. Fai le tue partite, quando hai fatto restituisci la tessera, loro ti ridanno indietro la cauzione che ti hai lasciato, hai provato il gioco senza spendere niente oltre le partite oltre che la partita fatto. Perfetto, allora chiudiamo con una nota di colore. Luca qui oggi ha vinto il torneo che si svolgeva al Pyramid con una formazione di tipo free, dicevamo, quindi sì. Vale tutto, il giocatore migliore, tutte le carte vanno bene. E allora dici la formazione vincente di allora, questo torneo. Dunque, portiere sempre lui, Buffon. Modulo? Modulo era un 3 aspetta, 3-2-1-3, una roba del genere. Sì. Sono moduli molto fantasiosi. Non sono i classici 4-4-2, 4-3-3. Anzi, il modulo più famoso adesso è il 7-0-3. Praticamente tutto in difesa e 3 in attacco. Palla lunga e pedalare. Ok. Poi dunque, allora, parte Buffon. In difesa, dunque, Thuram, Nesta, Cannavaro. A centrocampo, Desailly e Davis. A centrocampo un po' più avanzato, diciamo. Poi c'è Gerrard e Zidane. E in attacco, Adriano, Ronaldo e Boxic. Poi in panchina chiaramente c'è anche Maldini, Nedved, Totti, Shevchenko e UEA. Ok. Adesso sentiamo la formazione di Luca, che però è una formazione... No, di Davide. Ah, scusa, di Davide. Quella di Luca l'abbiamo appena sentita e ha vinto meritatamente il torneo. Bravissimo. David però giocava una formazione U5, giusto? No, oggi ho schierato oggi... anch'io una formazione free. Ah, ok. E allora vai, diccela. Beh, la mia è un pochino più a base unica. In porta il mitico Gianluigi Buffon, sempre lui. Una difesa composta da Thuram, Montero, Cannavaro, a disposizione del mister Tudor. A centrocampo Davids, sulla fascia Nedved e Vieira, Deschamps, il mitico, a centrocampo. In attacco abbiamo l'alternativa fra Del Piero, Ravanelli, Vialli e Ri. Ovviamente la squadra è monotema. Sì, infatti se non si fosse nati... Tu da buon interista avrai sicuramente notato che è a base juventina. Esatto. C'è un particolare di un giocatore che effettivamente viene messo perché ahimè lo fanno con la maglietta della Juventus, è buon Zinedine Zidane, ma da bravi italiani Zinedine Zidane a noi non sta molto simpatico, però effettivamente nel gioco è abbastanza forte. Bene, quindi dai, in una squadra di juventini effettivamente se Zidane non, se non c'è. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver accettato di partecipare. Zidane è anche una delle carte più ricercate a livello di collezione. Anche questo, perché... soprattutto quella scritta in italiano per i giapponesi. Perché noi ce l'abbiamo scritta in italiano, loro ce l'hanno scritta in giapponese. Quando noi facciamo vedere quelle lì, loro semplicemente si cavano i calzoni e ci danno tutto quello che hanno. Che noi ce ma Baggio c'è nel gioco? Baggio c'è, ma Baggio fatto c'è, una carta versione, speciale, carta azzurra. Ha fatto una versione ridicola, nel senso che è stato fatto una volta con la maglia del Brescia e una volta una edizione con la maglia dell'Italia, ma con dei valori, se te vedi, molto scarsi. E non è neanche, nessuno quasi mai la usa nei tornei. Tutti avrebbero voglia di giocare un Roberto Baggio. Speriamo tutti anche che nelle nuove versioni escano un Roberto Baggio in edizione Legend. Con valori anche... un pochino più performanti. Hanno fatto giocatori ultimamente come Pelé, Maradona Cruyff, e tanti altri giocatori. Il prossimo che dovrebbero fare Legend sicuramente sarebbe Roberto Baggio, con dei valori astronomici, perché è stato un momento della sua carriera che era il migliore al mondo. Va bene, allora io vi ringrazio nuovamente, vi lascio salutare gli ascoltatori di Jet Set Radio Cast. Ciao a tutti. Ciao anche da parte mia. Va bene, allora ci sentiamo poi dopo la pausa per concludere la puntata, vi lascio andare e vi ringrazio ancora. Se ci sarà occasione potremo sempre approfondire, perché penso che per VCCF ce ne sarebbe da parlare per Tanto tempo. Infatti anche fuori onda mi hanno raccontato un sacco di aneddoti veramente favolosi, e poi la loro visione di VCCF esclusivamente come gioco da sala giochi non può che rendermi felice. C'è solo quello. Può esistere solo quello. Fantastico. Poteva chiudersi con parole migliori questa puntata su World Club Champion Football. Volevo solo aggiungere che il mio consiglio è a chi ne avesse la possibilità di tornare a calcare i campi del VCCF, dato che come abbiamo visto il gioco in Italia è ancora vivo grazie alla passione dei giocatori, nonostante le mille difficoltà. A chi non l'avesse mai fatto, provatelo assolutamente, dato che World Club Champion Football è sicuramente uno dei progetti arcade di Sega più ambiziosi e un importantissimo pezzo di storia degli arcade e dei videogiochi tutti. Ringrazio ancora una volta Luca e David, che sono stati davvero eccellenti interlocutori, se considerate che abbiamo organizzato tutto su due piedi e registrato parlando a braccio, senza che avessero avuto il tempo di preparare nulla. Davvero, se non fosse stato per i tempi della puntata da rispettare e l'ora tarda che abbiamo fatto, avremmo potuto andare avanti fino all'alba. Questo è quello che succede quando la passione per il gioco arcade si mischia a quella per il calcio giocato. E allora vi do appuntamento alla prossima puntata di Jet Set Radio Cast lasciandovi con un piccolo spezzone audio relativo ad un aneddoto che gli amici di VCCF Italia sicuramente apprezzeranno. Alla prossima. Palla dentro, Martins, attenzione, ancora palla buona, viene spallato via, Oba, acrobazia, via, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, tritalone, tritalone, tritalone, andiamo a vincerla, 4 di recupero, nulla è impossibile, nulla è impossibile, nulla è impossibile. Nulla è impossibile! Tritolone! 2-2! Tritolone! 2-2! Forza ragazzi! 4 da giocare! Jet Set Radio! Radio!